Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti ad una nuova puntata di Focus Economia. Il numero per intervenire in diretta è come sempre quello degli sms, il 349-238-6666. Se volete mi trovate anche su Twitter e potete scrivermi anche là. Di cosa parleremo in questa puntata oggi? Iniziamo dalla seconda parte della trasmissione, va? Dove andremo sulla vicenda di Indesit. È stato firmato ieri l'accordo con il quale praticamente si è eliminato il rischio di 1400 esuberi e la FIOM non l'ha firmato. Parleremo proprio con chi si è occupato all'interno della FIOM CGL della trattativa per capire come mai, dopo che si è partiti appunto da 1400 esuberi, si è arrivati a quasi zero, per un piano che prevede tra l'altro il rientro in Italia di produzioni, diciamo così, di alta gamma o comunque ad alto valore aggiunto, e lo spostamento all'estero delle produzioni a minor valore aggiunto. Insomma, come mai la FIOM abbia deciso di dire di no? Sentiremo anche invece una sindacalista della CISL invece che ha deciso di dire sì. Torneremo sulle vicende di Prato e non proprio su quelle di Prato, perché in realtà la situazione è ben più diffusa di quanto non appaia, i problemi che ci sono da quel punto di vista. C'è stata una lettera oggi pubblicata dal Sole 24 Ore e indirizzata a Giorgio Napolitano di Pasquale Natuzzi, che dice: attenzione, nel quello che era il distretto dell'imbottito, il distretto del mobile tra Puglia e Basilicata, succede esattamente la stessa cosa. Vengono utilizzati da una serie di aziende, delle quali Natuzzi fa anche i nomi, vengono utilizzati terzisti, spesso cinesi, e che tengono le persone in un sostanziale stato di schiavitù. Esattamente la situazione che abbiamo visto a Prato. Tra l'altro è arrivata anche qualche segnalazione da ascoltatori che dicono: attenzione, il fenomeno è molto più diffuso, ci sono altri luoghi, come per esempio una parte della produzione del tessile e della pelletteria nel napoletano, e il distretto della sedia nel Friuli. Se volete anche raccontarci qualcosa via sms, volete scrivermelo su Twitter, ditelo, magari troveremo il modo di segnalare qualcosa e magari di ritornarci, se non in Focus Economia, sicuramente in effetto giorno. E sentiremo dunque l'intervista realizzata oggi con Natuzzi. Ascolteremo anche un'altra intervista, quella che ha realizzato Mario Platero a New York con l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. E poi parleremo di banche. Perché? Perché è arrivata una maxi multa per la manipolazione dell'Euribor e dell'Aibor da parte di Bruxelles, da parte dell'Unione Europea, da parte dell'antitrust, una multa al valore complessivo di 1 miliardo e 700 milioni di euro. Ovviamente parleremo anche di mercati oggi piuttosto deboli, FTSE MIB che cede lo 0,11%, FTSE All Share altrettanto. In realtà l'Italia va un po' meglio del resto d'Europa, anche se non di moltissimo. Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,24%, Londra lo 0,14%, è positiva l'America, un più 0,17% sul Dow Jones e un più 0,16% sullo Standard & Poor's 500, e guadagna lo 0,3% il Nasdaq. Vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta: 349-238-6666, via sms, le notizie in breve di oggi. Sempre partiamo dalle materie prime. Oro in rialzo dello 0,4% a $1,266 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, WTI con consegna a gennaio a $96,9 al barile, in rialzo dello 0,9%. Brent in calo dello 0,12% a $112,48 al barile. Dato dagli Stati Uniti, il settore privato americano ha creato in novembre 215.000 posti di lavoro, è quanto emerge dal sondaggio dell'ADP, dato migliore delle attese degli analisti, che si attendevano 170.000 posti. Ben diverse le cronache che arrivano dall'Europa. Da Madrid, dove l'annuncio di un nuovo punto vendita IKEA offre 400 posti di lavoro, ha attirato 20.000 candidature online in soli due giorni. Risultato: server bloccato e società costretta a sospendere la procedura di assunzione. Poi ci torneremo sulla questione del lavoro nero e di quello che succede in una serie di distretti italiani, in una serie di zone di produzione italiane. Ha ragione però chi dice che c'è dell'ipocrisia, perché la situazione la conoscono tutti e nessuno ne ha parlato, ne parla, perché evidentemente non conviene. Torniamo alle cronache europee. 485 euro al mese di salario minimo sono troppi, specialmente se ai giovani. È quello che dice la Troica, che a quanto pare che sembra volersi presentare così in Portogallo per una nuova missione di ispezione. In Portogallo proseguono intanto proteste e scioperi. Persino le imprese reagiscono male a queste dichiarazioni della Troica, dicono: non è diminuendo i salari che si farà ripartire l'economia. Antonio Saravia, presidente della Confindustria portoghese, dice. Della maximulta vi abbiamo detto e ci torneremo proprio tra poco. C'è una contestazione parlamentare sulla vicenda delle quote di Banca Italia, sul decreto varato dal governo. Chiede Massimo Mucchetti, presidente della Commissione Industria, senatore del PD, ex giornalista, anche così lo conoscete naturalmente, chiede che il ministro Saccomanni e il governatore Visco vengano in Senato e poi alla Camera a spiegare i lati incomprensibili del decreto. Contesta la struttura dell'operazione. Negli anni 90, con la fine del controllo pubblico sulle banche, ci fu una privatizzazione preterintenzionale della Banca d'Italia detenuta dagli istituti. Adesso si procede ad una privatizzazione intenzionale con una ricca dote per i soliti noti. Ci sono le parole del ministro dell'economia Saccomanni a proposito di Italia. È troppo presto per dire se le risorse individuate dalla spending review possano essere usate per ridurre il cuneo fiscale, dice Saccomanni, spegnendo un po' di entusiasmi. Dice ancora Saccomanni, sempre sulla spending review: non è arrivata nessuna nuova richiesta da Bruxelles in merito all'ipotesi dei 6 miliardi di tagli, richiesta che avrebbe avanzato la Commissione. Il problema della mini rata IMU. Problema che esiste, dice il vice ministro all'economia Stefano Fassina. Cercheremo una soluzione nel confronto con il Parlamento. Le questioni di Telecom. Innanzitutto le dichiarazioni dell'ex presidente Franco Bernabé, che dice che la strada scelta per Telecom Italia è incerta quanto a esito finale e porta ad un depauperamento della società che diventerà un soggetto solo italiano. È una strada che non potevo condividere ed è quella che mi ha condotto a lasciare il gruppo, dice. Dice Antonio Catricalà, viceministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni: finora non mi sembra che ci siano state concrete proposte all'ingresso in Telecom Italia da parte di altri concorrenti. Dice Catricalà: Italia ancora in ritardo sul fronte dell'agenda digitale, lo sappiamo, ma sentiamolo al microfono di Leonardo Rossi. Siamo un po' indietro rispetto agli obiettivi europei, però siamo in grado di recuperare perché abbiamo gli investimenti pubblici necessari e abbiamo soprattutto molta voglia di intervenire. Abbiamo dalla nostra l'Europa e credo che ci sia anche formata una convinzione in tutto il Paese, che poi questo è importante, che gli investimenti in digitale sono investimenti che porteranno grandi ritorni. Dobbiamo stimolare gli operatori, invogliarli, creare una condizione di mercato tale per cui siano sicuri che i loro investimenti saranno poi alla fine premiati. Quante promesse sull'agenda digitale, speriamo che a un certo punto ci si tiri fuori. Io ricordo sempre la frase che secondo me è simbolo del presidente dei calzaturieri del Brenta, che è questa: quando dobbiamo mandare un allegato di grandi dimensioni dobbiamo usare un corriere. È la perfetta descrizione dello stato del paese e dello stato di alcune imprese che non sono nemmeno in grado di utilizzare la rete come dovrebbero e come vorrebbero. Grandi convegni e poi alla fine. La crisi ancora italiana, ci sono i dati della UIL, nel 2012 oltre 3,9 milioni di persone, quindi quasi 4 milioni, sono state protette da ammortizzatori sociali con un aumento del 20,5% sul 2011. Sempre a proposito di questioni sindacali, c'è l'accordo Indesit, ci torneremo tra poco, è un accordo che scongiura le ipotesi di licenziamenti, vengono utilizzati appunto gli ammortizzatori sociali, ma insomma torneremo su questo. Coldiretti, ve l'abbiamo raccontato, protesta al Brennero, blocca i camion, la battaglia di Natale Scegli l'Italia, così si chiama, rimarranno anche domani per difendere il settore dalle importazioni che definiscono di bassa qualità spacciate come italiane. In realtà ci si riferisce alle produzioni di materie prime che arrivano in Italia e poi vengono trasformate in Italia, quindi il discorso è lievemente diverso, E però sentiamo Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti. Adesso ne abbiamo già bloccati quasi un centinaio di camion, quindi una cosa piuttosto interessante. Ma tutti che trasportavano alimentari, perché? Sicuramente il Brennero è un po' il passo simbolo dove i prodotti agroalimentari provenienti dagli altri stati, ma soprattutto dalla Germania, entrano in Italia, quindi è un fiume di prodotti di cibo che entra in Italia, fabbricato ovviamente in altri paesi, costruito in altri paesi, poi quando passa il Brennero diventa italiano. Diventa italiano in che senso? Nel senso che ad esempio abbiamo fermato camion con prosciutti dove il marchio di provenienza non era neanche per legge, e questo è un po' anche una frode, ogni prosciutto deve essere marchiato, abbiamo trovato dei prosciutti che non erano assolutamente marchiati e quelli che erano marchiati non avevano l'inchiostro indelebile, non erano impressi a fuoco, va da sé che nel momento stesso in cui qualcuno lo lavora in Italia, ci mette sopra un bel marchio italiano, il consumatore pensa di consumare un prosciutto italiano, che italiano evidentemente non ha nulla. Fino a quando rimarrete al brand? Rimaniamo oggi tutto il giorno e anche domani tutto il giorno. Tengo a precisare che assieme al Brennero abbiamo fatto una manifestazione a Reggio Emilia proprio di allevatori e domani al Quirinale. Domani sarete al Quirinale? A Piazza Montecitorio. Cambio di base ci introduce al fatto che cambiamo argomento, veniamo al primo argomento di questa giornata. E il primo argomento di questa giornata sono le banche, non quelle italiane però, Parliamo dell'antitrust europeo che ha inflitto multe per 1 miliardo e 700 milioni di euro alle maggiori banche mondiali, accusate di aver manipolato l'Euribor, il LIBOR, il TIBOR, costituendo diversi cartelli. Il LIBOR in particolare uno degli indici di riferimento per calcolare gli interessi sui finanziamenti in valute diverse dall'euro. Si calcola che prodotti finanziari per almeno 350 mila miliardi siano legati all'andamento di questo indice. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno, anzi buonasera. Beda? Abbiamo evidentemente un problema con Beda Romano. Va bene, va bene. Allora, vi leggerò intanto qualcosa io. Mi sente? Sì, sì, adesso ti sentiamo, Beda. Beda? Sono qui. Beda Romano, oh, eccolo qua, Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Abbiamo avuto evidentemente qualche problema di collegamento, non riuscivamo a sentirti. Che cosa si sa? Io vorrei che ci aiutassi a capire un po' di cose dal punto di vista tecnico, Beda, perché già un ascoltatore ci dice, mi scrive via sms al 349-238-6666, mi dice: Spezia, ci aiuti a capire che fine farà questa multa. Domanda: le banche possono ricorrere? Lo faranno? È qualcosa che devono pagare subito, immediatamente? Presumibili sconti futuri? Aiutaci dal punto di vista delle procedure, Beda. Allora, alcune di queste banche non hanno accettato la decisione della Commissione e quindi la procedura nei loro confronti continua. Vi sono invece l'intera indagine riguarda 8 banche. 2 di queste banche hanno avvertito le autorità di questo cartello e quindi sono state completamente graziate e non dovranno quindi pagare multe. Queste sono Barclays e UBS. Le altre 6 invece hanno collaborato e quindi, a seconda della loro collaborazione e a seconda del loro coinvolgimento, hanno potuto avere uno sconto sulla multa. Altre banche invece hanno respinto l'addebito, hanno rifiutato l'indagine della Commissione e quindi sono ancora oggetto di indagine. Sono ancora oggetto di indagine. Tra l'altro c'è un comunicato di Société Générale che dice che pagherà un'ammenda di 445 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta della Commissione Europea, ma dice che le violazioni commesse risalgono ad un periodo limitato e sono per la quasi totalità attribuibili ad un solo operatore. In tutta franchezza, Beda, insomma, è difficile pensarlo, no? È una bruttissima vicenda per molti aspetti ed è una vicenda molto legata alla crisi finanziaria e soprattutto legata all'ondata di liberalizzazione che c'è stata sui mercati finanziari nel corso degli anni 90 e nel corso del primo decennio di questo secolo. Il settore è stato liberalizzato, i mercati finanziari sono diventati sempre più complessi, le autorità di regolamentazione sono state sempre più benevole, hanno girato lo sguardo dall'altra parte e hanno permesso alle banche o ad alcuni operatori di alcune banche di operare in questo modo. In questo caso le banche o gli operatori hanno manipolato il tasso di interesse a loro favore. Peraltro questi indici sono indici preparati sulla base di scambi che avvengono fra le banche. Quindi naturalmente c'è un conflitto di interesse che esiste in questo frangente e che la Commissione alcune settimane fa ha cercato di risolvere in un modo o nell'altro presentando un progetto di legge che dovrebbe cercare di rendere più trasparente la messa a punto e l'uso di questi indici. Questi indici come l'Euribor o il LIBOR sono indici particolarmente importanti perché è sulla base di questi indici che vengono calcolati i mutui immobiliari, i derivati finanziari e via di seguito. Ti ringrazio, grazie Beda Romano per questi chiarimenti, ti lasciamo al tuo lavoro che sappiamo che è piuttosto intenso e buonasera. Allora, io voglio innanzitutto leggere un sms che arriva da un ascoltatore che riguarda la protesta di Coldiretti al Brennero e la frase che ho detto prima, che in realtà quello di cui si parla sono materie prime, e chiede: ma perché il cibo si fabbrica o si costruisce? Sì, il cibo si fabbrica o si costruisce. Io non so se lei la mattina immerga della farina direttamente nel suo latte, probabilmente ci immerge dei biscotti o qualcosa di questo genere, e queste cose vengono fatte da un'industria che utilizza delle materie prime. Queste materie prime possono per esempio arrivare dall'estero quando non ne abbiamo abbastanza in Italia, ed è tutto sommato una cosa abbastanza normale. Tra l'altro arriva un comunicato di Confindustria in questi minuti, perché alla protesta al Brennero c'era anche il ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo. Dice Confindustria che sconcerta il comportamento, si dice sconcertata per il comportamento del ministro, che con la sua presenza al valico del Brennero ha dimostrato di non tenere in debita considerazione tutte le disposizioni europee che regolano l'originalità dei prodotti agroalimentari. Ai molti che ci scrivono al 349-238-6666 a proposito della manifestazione di Coldiretti e della difesa del Made in Italy, suggerisco, per quanto vi possa sembrare di parte, perché è la presidente dell'Assica, l'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi, il bel articolo pubblicato oggi dal Sole 24 Ore di Lisa Ferrarini, dove vengono riportati anche dei dati. In Italia viene importato tra il 40 e il 45% del latte, il 50-60% del grano tenero e il 30-40% del grano duro, che praticamente lo usiamo solo noi perché è quello che serve per fare la pasta. La metà dei cereali per i mangimi, tra cui il 90% della soia, il 40% della carne bovina e suina. Allora, possiamo raccontarci e anche crederlo che il nostro cibo, come scrive un ascoltatore scherzando, sia organoletticamente migliore? Ma forse anche no, forse c'è anche una capacità di trasformazione della nostra industria che non può essere lasciata in secondo piano rispetto alla provenienza del prodotto, che magari tra l'altro è ottima, perché non è che i cibi che vengono da fuori siano tutti cattivi. Che infastidirà questa posizione. Comunque potete scrivere, leggerò anche i messaggi contrari come sempre. La borsa. Andrea Fontana, Radio Core, il Sole 24 Ore. Ciao. Buonasera, ciao. Come stai? Bene. Giornata moscetta, direi. Sì, giornata da interpretare sulle borse europee, moscia come tu dici, leggendo naturalmente gli indici in rosso di tutta Europa, in particolare Francoforte ha perso quasi l'1%, però da interpretare, dicevo, perché Milano infila la quarta seduta di calo consecutivo, la settimana è partita con una seduta difficile, quella di lunedì, con vendite consistenti sui future del FTSE MIB, ci sono alcune correzioni importanti su settori e titoli, quindi da capire se la tensione, diciamo così, e se le borse volevano un po' prendere una boccata d'ossigeno con un po' di realizzi in vista della pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve di questa sera, che darà un orientamento come al solito sulla situazione dell'economia americana e delle possibili mosse della Federal Reserve in conseguenza per supportare la crescita, e sull'appuntamento della BCE di domani, oppure se è in atto una correzione che potrebbe anche magari durare qualche seduta, insomma. Allora, indici, FTSE MIB meno 0,29%, FTSE All Share meno 0,26%, Francoforte quasi un punto percentuale di calo, Parigi lo 0,57%, l'America lievemente negativa, meno 0,04% sul Dow Jones e meno 0,04% anche sullo Standard & Poor's 500. Tra poco sentiremo l'intervista che ha realizzato Mario Platero con Sergio Marchionne. Dunque, parliamo proprio di Fiat, perché è uno dei titoli migliori, più 1,71%. Sì, oggi Fiat market ha conosciuto un buon rimbalzo dopo alcune sedute un po' faticose, anche dovute alla pubblicazione di immatricolazioni auto in Italia che non avevano portato certo buone notizie. Buone notizie invece sono arrivate dagli Stati Uniti, le vendite di auto di Chrysler a novembre hanno conosciuto una crescita del 16%, più di quanto ha fatto il mercato americano nel mese di novembre, e quindi questo ha riportato un po' gli investitori sul titolo, e questo ha permesso a Fiat di guadagnare l'1,7% e di essere, insieme a Diasor, in protagonista di un altro piccolo rimbalzo, la migliore del FTSE MIB oggi. Bene, anche Pirelli più 0,91. Sì, il settore auto in generale positivo, diciamo che su Pirelli ci sono molte visioni positive dopo l'andamento, dopo la pubblicazione del piano industriale che risale ormai a un mese fa. Non sono poche le case d'affari che vedono spazi di crescita e anche un business abbastanza ben bilanciato. C'è da dire che oggi nel settore dei pneumatici si è distinta anche a Francoforte Continental con un più 0,7%, Pirelli ne ha anche l'ha accompagnata e ne ha risentito positivamente col suo più 0,9%. Per quanto riguarda altri titoli, c'è Enel che sembrava aver tenuto, poi in realtà ha chiuso con un calo dello 0,32%. Sì, diciamo che nel momento un po' più difficile del mercato italiano, del mercato milanese, fino alla prima parte del pomeriggio Enel si era tenuta sulla parità, anche perché il mercato valuta positivamente questa ipotesi di stampa di una cessione della quota di minoranza che le rimaneva in Rete Gas, che era stata invece ceduta per quanto riguarda la quota di minoranza al fondo per le infrastrutture F2I già qualche anno fa, quindi questo era stato valutato positivamente perché porta a una riduzione del debito. Poi il mercato ha un po' allungato e quindi altri titoli si sono messi in maggiore evidenza rispetto a Enel, che ha chiuso con un meno 0,32, che è sostanzialmente in linea con quello che ha fatto l'indice FTSE MIB. Tra i titoli in positivo, Mediolanum più 0,87, Azimut mezzo punto percentuale di guadagno, così come Campari, ST Microelectronics più 0,44, Banco Popolare più 0,37, Finmeccanica più 0,3, Saipem più 0,25, Parmalat altrettanto, Unicredit più 0,19. Adesso verremo anche a Telecom Italia, però prima ti voglio sulla Popolare di Milano più 0,82%. Popolare di Milano è sicuramente in questa fase uno dei titoli diciamo che per il quale sono attese notizie e movimenti maggiori, anche perché è attesa un'importante assemblea degli azionisti prima di Natale, precisamente il 21 dicembre, dove si dovrà decidere, diciamo così, quale orientamento dal punto di vista della guida dei vertici prenderanno gli azionisti. Quindi chiaramente i movimenti e le attenzioni tra le liste concorrenti e appunto le uscite, le dichiarazioni tra le liste concorrenti portano anche un'attenzione sul titolo e un recupero come quello segnato da oggi. Allora, brevemente invece, Telecom Italia alla fine chiude con un rialzo lievissimo, appena sopra la parità. Ci sono una serie di dichiarazioni interessanti, innanzitutto quella di Fossati, socio di Telecom, che dice che l'attuale CDA manca la visione, sta dimostrando che ha distrutto del valore e se ne deve andare. E Franco Bernabè, l'ex presidente, che dice la strada scelta è incerta quanto esito finale, porta a un depauperamento della società. È una strada che non potevo condividere ed è quella che mi ha condotto a lasciare il gruppo. Non sono queste, credo, che hanno mosso il mercato, non sono queste notizie che hanno mosso il mercato, queste dichiarazioni, Andrea, no? No, beh, questo sicuramente no, sono posizioni e sono visioni sul futuro di Telecom e sul presente di Telecom che insomma da qualche mese, da dopo l'estate, si stanno rincorrendo. Certamente il titolo continua a soffrire di una incertezza nelle strategie e di un'incertezza anche anche dal punto di vista azionario, visto che la debolezza di oggi, che è stata poi recuperata integralmente sul finale, perché il titolo è arrivato a perdere oltre l'1% e poi ha recuperato e ha chiuso sulla parità. La debolezza di oggi è nell'attesa di quelle che saranno le valutazioni dell'antitrust brasiliano per quanto riguarda l'operazione che ha portato Telefonica ad essere l'azionista di riferimento della holding Telco, che ha il pacchetto più importante delle azioni Telecom, e poi anche le valutazioni che sulla base dell'antitrust brasiliana farà Consob. Quindi il tema dell'antitrust è il tema pendente su Telecom, ma poi quello delle strategie e le dichiarazioni degli azionisti che tu ricordavi lo mettono bene in evidenza. Andrea, in 20 secondi Monte dei Paschi. Per Monte dei Paschi oggi una giornata veramente da dimenticare per quanto riguarda il titolo. Indiscrezione dei giornali secondo cui la fondazione starebbe pensando e starebbe ormai lavorando per vendere l'intera quota prima dell'assemblea azionistica che approverà l'aumento di capitale. La fondazione ha smentito di aver avviato le vendite, però è chiaro che pende questa incertezza e il titolo non può che risentirne, e oggi ha perso il 5,3%. Intanto anche una notizia che arriva dalle istituzioni, poi sicuramente ve la daranno, approfondiremo con i colleghi del GR alle 18, che la Consulta ha bocciato il cosiddetto Porcellum, ossia la legge elettorale, incostituzionale il premio di maggioranza e la mancanza delle preferenze. Queste le prime indicazioni che abbiamo. Ci si tornerà nel giornale radio. Noi adesso vogliamo parlare di Prato, ancora della vicenda di Prato. Oggi, con una lettera pubblicata sul Sole 24 Ore indirizzata al capo dello Stato Giorgio Napolitano, l'amministratore delegato del gruppo Natuzzi, Pasquale Natuzzi, ha messo l'attenzione su quello che sta accadendo nel distretto del mobile imbottito. Siamo in Puglia e Basilicata. Accade, dice, quello che succede a Prato. Ce lo ha raccontato in questa intervista che abbiamo realizzato in effetto giorno. Succede che l'industria del salotto, che si era sviluppata con il distretto più grande d'Europa per la produzione dei divani in pelle, prevalentemente con 14.000 addetti e 520 aziende, nell'ultimo quinquennio è stato decimato, non c'è più nessuno. Però ecco, non è che non c'è più nessuno, la produzione è stata sostituita da altri imprenditori che sono extracomunitari, diciamo, ma prevalentemente di nazionalità cinese, che producono per i marchi che esistevano, che a loro volta hanno messo in cassa integrazione o licenziato con peripezie certamente non del tutto pulite o legali. Hanno messo in cassa integrazione gli operai e affidano la produzione a queste aziende, che aprono e chiudono dopo 12-14 mesi, in maniera tale che in questa maniera gli viene a costare molto meno della metà praticamente il prodotto. Tra l'altro, tra l'altro ci scrive un altro ascoltatore, dice: triangolo della sedia in Friuli, stessa situazione di Prato, quindi evidentemente la situazione, il problema si sta evidentemente diffondendo, e le condizioni di questi terzisti Natuzzi sono praticamente, a quel che lei ha scritto e ha fatto capire, le stesse condizioni di schiavitù vera e propria che abbiamo visto a Prato. Allora, i terzisti, le aziende che producono per questi marchi, che poi è Chateau Dax, Poltrone Sofa, io li ho già denunciati, guardi, perché non è che ci dobbiamo nascondere. Praticamente questi marchi fanno produrre, non solo, poi c'è Calia, c'è Nicoletti, tutti i marchi fanno produrre a questi terzisti che in condizioni di schiavitù, e praticamente loro riescono in quella maniera, è il modello di business che hanno scelto, e riescono a vendere prodotti a prezzi molto più bassi e riescono ad avere budget pubblicitari del calibro di 35 milioni di media spending per anno. Noi invece non sappiamo da dove andare a prendere questi soldi, a noi ci è rimasto solo la legalità e la trasparenza.

Col Diretti sarà domani coi maiali a Piazza Montecitorio, la battuta sul dentro e fuori ormai via SMS l'avete fatta tutti al 349-238-6666. Chi parla di ricongiungimento familiare, chi dice insomma sono dentro e sono fuori, basta, ormai l'avete fatta tutti, smettiamo. E adesso parliamo di industria italiana ancora. Prima abbiamo parlato con Natuzzi, poi abbiamo sentito un'intervista a Marchione, adesso parliamo dell'accordo tra Indesit e sindacati sul piano di riassetto in Italia. Tra gli elementi del piano saltano i 1.400 esuberi previsti inizialmente, sono previsti incentivi all'esodo per chi ne farà richiesta, l'impegno dell'azienda a non ricorrere all'utilizzo di procedure di immobilità unilaterali sino al 2018, quindi per 5 anni. Rinnovo della gamma di prodotti, quelli a più alto valore aggiunto rientrano in Italia e quelli a più basso valore aggiunto vanno fuori. Iniziamo da chi ha firmato questo accordo, perché la FIOM non ha firmato. Della segreteria nazionale della FIM CISL, Anna Trovò. Noi riteniamo che l'ipotesi d'accordo definita ieri sera in sede ministeriale, peraltro col consenso della FIM, della UIRM, dell'UGL, delle regioni interessate Marche e Campania e dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, sia un punto importante di arrivo di una trattativa faticosissima durata 6 mesi, durante la quale i lavoratori hanno lungamente scioperato e manifestato. Perché è un punto d'arrivo importante? Perché il 4 di giugno l'azienda ci aveva presentato un piano industriale che chiudeva impianti, allontanava dall'Italia produzioni e produceva un numero importante di eccedenze occupazionali. La trattativa ci ha portato a un esito che è decisamente differente dall'impianto iniziale, perché vengono sì delocalizzate le produzioni sulle quali l'azienda dichiara non esservi marginalità, addirittura lavorazioni sulle quali oggi viene prodotta una perdita, come la lavatrice a basso litraggio, ma vengono in compenso internalizzate alcune altre attività e portate in Italia produzioni che erano allo stato attuale fatte fuori dall'Italia. Le faccio qualche esempio: i frigoriferi ad incasso oggi fatti in Turchia, i forni oggi fatti in Polonia, i piccoli forni ad incasso oggi prodotti in Spagna. In più vengono internalizzate le attività di IT e di service. Insomma, un buon equilibrio nel quale si asseconda la necessità dell'azienda di evitare di produrre perdite lavorando, ma si chiede in cambio di avere attività sulle quali c'è marginalità che arrivano a compensare quello che si perde. È un impegno costruttivo quello che ci siamo assunti per proteggere il lavoro e ribadire l'importanza delle attività italiane di Indesit. Questo accordo verrà sottoposto a referendum, che cosa vi attendete? Intanto noi faremo assemblee con i lavoratori per illustrare i contenuti dell'accordo. Domani saremo nella fabbrica di Caserta, dopodomani a Fabriano e lunedì prossimo nella fabbrica di Comunanza, provincia di Ascoli Piceno. Martedì sarà il giorno del voto. Io ritengo che i lavoratori capiranno, proprio perché i lavoratori sanno come si è partiti e sanno come si è arrivati, sono in grado di valutare. E tenga presente che c'è allo stato attuale una procedura di mobilità aperta dall'azienda il 22 di novembre per 1.400 licenziamenti che proprio in relazione all'accordo raggiunto è stata chiusa e che ci consente di dire che non ci sono più licenziamenti nell'immediato, ma anche che non ci saranno licenziamenti per un periodo indicato dell'accordo di almeno 5 anni, quindi si garantisce la stabilità occupazionale. I lavoratori io ritengo che apprezzeranno. Senta, tra poco sentiremo anche l'opinione della FIOM, che è il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, che ha deciso di non firmare questo accordo. Lei come se lo spiega questo? dal punto di vista sindacale questa scelta non è spiegabile. Io non so che cosa dirle. In tante altre situazioni accordi meno importanti e meno tutelanti hanno visto la condivisione di tutte le organizzazioni. In questo contesto la FIOM, che pure ha sottoscritto con noi tanti altri accordi nel settore dell'elettrodomestico che è in crisi ormai da parecchio tempo, accordi con i quali si cercava di puntare sulle produzioni redditizie lasciando andare via quelle non più fattibili in Italia per salvaguardare così gli stabilimenti italiani e proteggere l'occupazione, in questo caso ha deciso di sottrarsi a questo tipo di impostazione. Saranno loro a dover spiegare il perché. Ne chiediamo proprio a Michela Spera, della segreteria nazionale della FIOM, che ha tra l'altro l'incarico di seguire il settore dell'elettrodomestico e la vertenza Indesit. Buonasera. Buonasera. Ha sentito cosa dice la sua collega della FIM? Dice sindacalmente non spiegabile il vostro no. Ce lo spiega? Sì, l'abbiamo spiegato anche alle altre organizzazioni sindacali, ai delegati ieri, l'abbiamo spiegato al governo, all'azienda, alle regioni interessate. Non ci hanno convinto, io non posso dirla in un modo più chiaro di su, questo. Su quali punti? Quella, su ecco, quali punti, non ci hanno convinto. Perché il testo presentato dal Ministero è un testo che recepisce un piano industriale che delocalizza impianti e produzioni dall'Italia e che rischia di aiutare e sostenere solo la vendita della Indesit. Ricordo che lo sappiamo perché ad esempio Sole 24 Ore è uscito con la notizia e la Consob, l'autorità che vigila sulla trasparenza delle informazioni, ha costretto gli azionisti a dichiarare, a fare chiarezza, che la Indesit è in vendita. Noi però mi scusi, noi non sappiamo invece quali sono i gruppi industriali interessati al mercato e non sappiamo se questi gruppi sono interessati ad acquisire anche gli stabilimenti e gli impianti con i lavoratori. Ascolti, quindi questo è il primo aspetto. Sì, però primo io aspetto. Ho una prima osservazione su questo, su dica, questo primo dica, aspetto. Sì. Anzi, due osservazioni, perché gli aspetti che ha dato in realtà sono due. E il primo è sulla questione della delocalizzazione. In realtà quello che succede appunto è che le produzioni, come già ci spiegava anche la sua collega, ma quello che dice anche l'azienda, che dice è un buon accordo, ora l'azienda è più forte, che si portano fuori produzioni a bassa marginalità, che non serve nemmeno produrre in Italia perché non c'ha i margini per farlo, e si riportano dentro invece produzioni un po' più di alta gamma. Questo in realtà dovrebbe essere un bene. Noi non siamo convinti, perché il piano industriale che sposta queste produzioni non garantisce un futuro industriale agli stabilimenti di Caserta e in primo luogo di Fabriano. Le produzioni che si portano via sono quelle del lavaggio, si portano via gli impianti a partire da febbraio di quest'anno e successivamente, poi entro la fine dell'anno, esce tutto il lavaggio dall'Italia, prima cosa. Vengono portati su Caserta dai frigoriferi ad incasso che fino a 8 anni fa si producevano a Caserta, sono 40.000 frigoriferi, sono 10 giorni di lavoro per lo stabilimento di Caserta. Fino a 8 anni fa prodotti a Caserta, portati via perché considerati prodotti non remunerativi e destinati alla delocalizzazione, oggi utilizzati per dire ai lavoratori di Caserta il futuro dello stabilimento rimane, perché portiamo qui 40.000 frigoriferi, ma non si portano qui tutte le altre produzioni del freddo che ad esempio avrebbe voluto a questo punto avere un significato industriale, far diventare il polo di Caserta l'unico polo che produce il freddo della Indesit, allora avrebbe avuto una ragione industriale. Si spostano i piani cottura, per essere precisi, a Melano si continuerà a fare lo stampaggio dei piani cottura, che poi verranno presi e portati a Caserta per il montaggio. E dal punto di vista industriale, noi questo l'abbiamo ripetuto per mesi all'azienda, non è una produzione che ha ragione di essere spostata da Melano a Caserta dal punto di vista industriale, che fra un po' la Indesit ci spiegherà che non è una produzione sostenibile che è destinata allo stabilimento. Nello stesso tempo si portano in Italia queste produzioni di piccoli forni dalla Spagna, che sono produzioni assolutamente marginali, sono 40.000 fornetti, per il gruppo Indesit sono marginali, tant'è vero che fino ad oggi li ha assegnati ad un terzista. Quindi sì, dal punto di vista industriale il piano non regge. questo secondo voi, naturalmente, insomma, secondo i delegati negli stabilimenti, poi ovviamente poi ci sarà un referendum. Noi a partire da domani spiegheremo farete le ragioni che non ci hanno convinto in questo piano industriale, in questo accordo, e i lavoratori attraverso il referendum diranno la loro opinione nella giornata di martedì. E volevo aggiungere una cosa brevissima, spera, perché siamo proprio in chiusura. Brevissima, che è quella che non ci sono licenziamenti. Ieri, al termine dell'incontro al Ministero, velocemente, l'azienda ci ha informato che intende procedere al licenziamento dei lavoratori di Brembate non disponibili a trasferirsi nelle Marche. Non disponibili a trasferirsi nelle Marche, quindi se si trasferiscono il posto di lavoro non lo perdono. Grazie Michela Spera della CGIL, della FIOM CGIL. Chiudiamo qua, grazie a Paolo Corleone in regia, Alessandro Jacopini, Mauro Del Corno, Barbara Bianchi in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani con Effetto Giorno.